Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono di nuovo a vedere la mostra di Caravaggio, perché è troppo importante, perché ho potuto vedere solo una piccola parte inizialmente e adesso si continua. Si continua, come si diceva nella puntata precedente, a osservare soprattutto come Caravaggio lavorava. Cioè le indagini scientifiche che sono state fatte in questi anni ci permettono di andare oltre la pittura. E noi sappiamo che Caravaggio, per esempio, riutilizzava le tele che trovava in bottega o prendeva da altri artisti, le ripreparava e sopra dipingeva, però con una serie di accorgimenti. Per esempio disegnava prima con delle pennellate le figure, e questo è una cosa molto importante, perché c'è sempre stato il mito che Caravaggio non disegnava, che andava direttamente davanti alle tele e faceva subito i quadri. No, c'era naturalmente un disegno preparatorio che lui però applicava sulle tele. L'altra cosa molto interessante, addirittura per certe tele si vede a occhio nudo che girava il pennello e incideva la tela con il retro del pennello per realizzare le mani, le teste, le composizioni che poi realizzava con la pittura. Sappiamo anche che creava una specie di atelier per questi suoi lavori, cioè scuriva l'ambiente dove doveva lavorare e lasciava solo penetrare dei fasci di luce da lucernari o da finestra. Ecco l'effetto della pittura caravaggesca, cioè di questo grande chiaroscuro, importante chiaroscuro che noi amiamo moltissimo. È uno dei motivi che attrae di più il pubblico contemporaneo, questa pittura di verità fatta appunto facendo emergere le figure dalla profondità. Questa mostra, tra l'altro, si addentra anche in un aspetto più tecnico che forse al grande pubblico interessa meno, ma agli specialisti moltissimo, cioè sulla datazione di questi dipinti. Quando e come Caravaggio realizza, con che sequenza realizza questi quadri? Qui naturalmente ci addentriamo in discorsi di specialisti e li lasciamo agli specialisti. Noi godiamoci questi meravigliosi capolavori cercando di apprendere come li ha realizzati questo grande maestro.